Dai e vai. Non è solo calcio. Di Sergio Ferrentino e Luca Gattuso. Well, I wanna tell you about Oopoopadoo. My Oopoopadoo. They call it a mug. They call it a mug. My Oopoopadoo, yeah. They call it a mug, yeah. They call it a mug. I said, oh. Eccoci a voi cari ascoltatori e benvenuti di nuovo a quelli che si sono messi soltanto in questo momento all'ascolto degli Ah e Vai, non è solo calcio, e non è solo calcio ma anche pallonate, perché diciamo un po' quello che sta accadendo in questo momento a Firenze tra Fiorentina e Inter. Mamma mia che faccia che c'ha, mamma mia che faccia che c'ha. Ma chi è? Stramaccioni, ma sai quando una persona è arrabbiata, che è lì, che c'ha la faccia tutta ingrugnita, quella faccia lì c'ha, è lì in panchina. Che sta guardando sto pratino verde con l'Inter, sta perdendo 3-0. Scusa, vorrei vedere te con tre pappine sul gobbo. Possiamo definirle tre pere? Sì, sono tutte molto schiacciate, insomma, però comunque sono tre pappine che si sta prendendo in questo momento l'Inter dalla Fiorentina. Diamo anche il risultato, bene, come si deve. Esatto, Fiorentina-Inter 3-0, il gol di Ljajic con assist di Jovetic, mentre poi c'è stata la doppietta di Jovetic. L'ultimo gol è stato un assist stupendo di Aquilani, che ha fatto un colpo di tacco proprio al limite dell'area, che ha liberato Jovetic, che l'ha messa in rete. C'è da dire che sul terzo gol una serie di carambole fortunate hanno portato al passaggio di Aquilani per Jovetic. Però non è in campo l'Inter. No, l'Inter. In questo momento è andata a farsi un giro. Sì, dopo il primo tempo che era 2-0, tutti i commentatori. Aspetta. Tocca la pallone il difensore dell'Inter. Vabbè, niente. No, dicevano, adesso vanno negli spogliatoi, Stramaccioni dovrà mettere un po' a posto la squadra, poi ritorneranno belli agguerriti in campo, ci sarà sicuramente la reazione dell'Inter. Inizia il secondo tempo uguale al primo, cioè la Fiorentina prende a pallate, letteralmente. Insomma, a pallate l'Inter. Nel momento in cui i tifosi milanisti ci credono, ecco che i tifosi interisti si deprimono. No, smetto di credere, non si sa bene a cosa, però comunque... No, al terzo posto. Cosa volevi, scusa, la merenda? Non so che cosa credessero i tifosi interisti, però qualsiasi cosa credessero, questa sera hanno smesso di crederci. Sì, comunque in qualsiasi caso già cominciavano a vacillare già nei giorni passati, però diciamolo chiaramente, io lo dico anche così, mi prendo la mia responsabilità, al contrario di Luca Gattuso che non vuole prendersi responsabilità, no. E cioè Stramaccioni nettamente sopravvalutato, cioè diciamo... Così? L'attacco di Ferrentino a Stramaccioni? Ma no, no, così è proprio... una sincera pacca sulla spalla, dai Strama, voglio dire, sei giovane, puoi fare un sacco di altre cose, cioè nel senso, poi altre squadre intendevo, no? Cioè, sai cosa farei io adesso? Io chiamerei Novellino. Ma dai, no. Che ce l'ha su con questi che improvvisamente vanno in Serie A senza fare la gavetta. Sono contrario a cercare di fare polemiche inutili, superflue e anche dannose. Mentre invece, se polemica sarà, lo diciamo, lo scopriremo soltanto tra qualche mese. Però ricordiamo quello che abbiamo già lanciato oggi pomeriggio con voi ascoltatori. Intanto vediamo l'824-0024 per quelli che sono in questo momento in giro in auto e magari non hanno sentito la puntata di oggi. 824-0024 per telefonare qui direttamente in trasmissione, e invece l'SMS 349-238-6666, questo per mandare altri SMS. Perché? Perché oggi abbiamo lanciato questa, non so come l'abbiamo, che campagna sondaggio? È? Questo piccolo, ma sondaggio esagerato. Io vorrei però evitare di fare sondaggi in questo periodo. Sono vietati, tra l'altro i sondaggi, non si può neanche fare i sondaggi. Abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori, dato che ci sarà la lotta greco-romana che verrà in qualche modo accantonata forse tra qualche mese all'interno delle Olimpiadi, ed è stata scelta come sport che si può in qualche modo allontanare dalla competizione olimpica. Bene, noi abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori, che sono tutti dei simpatici umoristi tra l'altro. Sì. No, scusa, 4-0, se ti disturbo. Anche qua, 4-0. Molto facile. incredibile, perché recuperano palla nella propria metà campo e c'è stata una reazione di orgoglio da parte dell'Inter, sì, lo diciamo, cioè, e questo per darvi capire come che butta stasera. Controllare dalla posizione che anche lui predilige come Jovetic a girare il tiro, non lo vede Handanovic ed è il 4-0, tutto molto facile. Ma lei quello che è stato preso a cazzotti? Sì, è lui, era lui quello che... è il pugile che ha subito la... bel tiro a giro dal limite, sì, dell'area. Ma male Handanovic, Beh sì, ma sai, quel tiro lì non è che potesse fare, non l'ha visto partire perché era affrontato da un difensore dell'Inter, quindi non ha visto partire la palla. Handanovic non è neanche riuscito a tuffarsi, insomma, non mi sembrava tanto vicino al palo, voglio dire, cioè, però, quelli di Del Piero non erano un po' più difficili. Questo è vero, questo è vero, c'è anche da dire che non l'ha visto partire, gli è passato a un metro di distanza. Secondo me c'è un po' di responsabilità Handanovic su doppio questo. Jovetic, doppio Jajic, fortunati coloro che ce l'hanno a fantacalcio in una giornata non particolarmente ricca di gol. Sei pronto poi per tutte le indicazioni sul fantacalcio? Sì. Allora torniamo però a noi, chiedevamo ai nostri ascoltatori, voi potete ancora mandarci, cioè quale sport voi vorreste inserire all'interno delle Olimpiadi, visto e considerato che ce ne sono alcuni che sono già candidati. Da oggi abbiamo già affrontato un primo sport candidato, che è quello l'arrampicata sportiva. Questo per farvi capire anche i livelli, candidati quali sono. C'è anche il baseball, però, cioè non è certo. Tutto... C'è anche il baseball, certo, anche il softball, no? Che sono tutti insieme. Sì, esatto, il wushu. Ecco, subito buttare giù. Non è una parola. Mettilo in fondo, Luca Cancellara qui con noi anche questa sera. Luca, però, sei qui con noi, però dici almeno delle wushu, mettilo in fondo. Metti prima, ecco. Wakeboard. Dopo il wakeboard. Il wakeboard, sì, che tu ci ricordi perfettamente. Essere un miscuglio tra sci nautico e lo snowboard. Vabbè, poi altre. No, ma soprattutto si può anche ricordare, cioè il contest non è soltanto per quale sport noi vogliamo gli Olimpiadi, ma soprattutto quale vogliamo accantonare. Tu nel pomeriggio ti sei esposto ricordandoci l'altro il tuo amore per il dressage. Che io cancellerei dalle Olimpiadi e farei continuare lo sport ovviamente in tutto il mondo. Vorrei vedere, no, già vabbè, facciamo punto proibizionismo sul dressage. Ma figurati, poi ci sarebbe il dressage di clandestino, che sì, esatto, mi sembra un caso, no, voglio dire, no? Cioè, invece no, assolutamente dressage giorno e notte, ma non alle Olimpiadi, grazie. E quindi così si può vedere. Però ecco, ci sono arrivati ovviamente dei messaggi da parte degli ascoltatori, e come vi ho detto c'è questo passaggio un po' particolare, nel senso che abbiamo una serie di ascoltatori che tendono a fare un po' del facile ironia, no? E quindi chiedono appunto il rugby subacqueo alle Olimpiadi o anche le freccette. Nota bene, non è una bufala, lo dicono in particolare a te Luca Cancellara, dicono, guarda, nota bene, il rugby subacqueo non è una bufala, per info chiamateli e cercate sul web. E questo da Firenze in questo caso. Poi dopo ci abbiamo anche un da Napoli, Claudio, che ci dice: ciao, ma perché non togliamo il calcio? Questo l'abbiamo già anche annunciato anche oggi pomeriggio, perché non olimpiamo, Roberto dice, non olimpiamo biglie, braccio di ferro, monopoli, chi beve più birra è rutto libero. No, rutto libero l'hai aggiunto tu, però. Cercavo di condire un po' la, perché l'email è particolarmente scema, quindi cercavo di dare una botta di vita, no, di questo. E soprattutto voglio criticare il fatto che tu abbia saltato un sms che dice: io vorrei vedere il chess boxing al posto della lotta greco-romana. L'ho saltata perché aspettavo te. Esatto. Che... ma sai che cos'è il chess boxing? Chess boxing è quando prendi a botte in bagno. No, è molto peggio, è un misto di scacchi e pugilato. Sì. Scusa? Scacchi e pugilato. Ecco, vabbè. Combattimenti di chess boxing vengono organizzati dal 2003. Sbagli la mossa e ti prendi un cartone. Esatto. Questo è il concetto. Praticamente ci si sfida in 11 riprese in cui vengono alternati un round in cui giochi a scacchi e uno in cui giochi a pugilato. Si inizia col round di scacchi di 4 vorrei minuti. Finire però la trasmissione, no, prima o poi, se tu mi dai la possibilità. Ti ringrazio per farmi alimentare questa mia cultura sportiva, no? Ma la cosa interessante è sapere per esempio cosa vuole Mario da Vicenza. Tu cosa vorresti alle Olimpiadi? Da Valdagno. Ci siamo già sentiti. Patria dell'hockey su pista. Sì, beh, oddio, ma io proporrei le bocce. Le bocce. Le bocce, perché c'è il curling e quindi c'è. Ah, tu dici, no, ma il curling tanto nelle Olimpiadi invernali. Sì, lo so, quindi nelle Olimpiadi estive. Bocce. Le bocce, anche perché dà una speranza a tanti di andare verso questo sport olimpico. Comunque è durissima la selezione d'Italia, Sì, no, sono terrificanti quelle cose. Perché lì diventa una roba incredibile, cioè pensare... Anche a livello patologico, direi. Soprattutto a quello. E con i grandi avversari francesi e spagnoli, mi verrebbe da dire. Ah, beh, sì, con la petanca. Ma sai che tra l'altro, non so se sei tuo amico, anche Stefano da Bergamo ci dice le bocce. Ci ha appena mandato un SMS al 349-238-6666. La grande passione delle bocce, sono voi. Ecco, io vorrei però il nome, ci abbiamo il numero, possiamo, ecco, lo diciamo, il prossimo stupidata che mandate con l'SMS, vi diamo il numero in diretta. No, ma gli telefoniamo, perché uno che scrive lancio della caccola, come minimo si becca almeno 500 telefonate a casa, così, no? Ecco, no, noi scherzavamo ovviamente, cioè, insomma, per modo di dire, adesso poi vediamo, fuori onda. Va bene, senti, Mario, vabbè, tu proponi le bocce, ma tu giochi? Al posto di cosa però? Gicagni per l'Inter. Scusa? Gigi Cagni per l'Inter, ormai è partito, dice delle cioè, cose. Ma sostituisci così, vuoi, chi faresti entrare adesso nell'Inter? Chi faresti entrare nell'Inter adesso? Basta, non ci sono più cambi. Adesso non ci sono più cambi. Che... Ah, vabbè, basta, allora, vabbè, niente. No, però volevo anche capire, cosa toglieresti come sport? Dove? Dalle Olimpiadi. Dalle Olimpiadi sempre. Dalle Olimpiadi. Beh, pentathlon moderno. No, pentathlon moderno. Beh, perché tu sei contro i giovani, capito? Tu non vuoi fare perché tu il pentathlon antico si può togliere, il pentathlon moderno no, hai capito? Ciao, grazie, stammi bene, Mario. Bene, allora andiamo pure avanti. Karate. Lo voglio fare a tutti i costi all'interno. Mi sembra poi una cosa molto guerrafondaia alla fine. Tutti arti marziali che cominciano a entrare dentro, sono preoccupato. Sai, ai Pan Am Games, che sono i giochi panamericani, l'inline hockey è già incluso da tempo. Fucile e carabina non sono sport. Questo è Davide, sempre sul 349-238-6666. Quindi vorrebbe introdurre l'hockey inline. Beh, questo è già qualcosa. Beh, direi che a questo Sai punto potremmo introdurre il traffico. Esatto. Dai e vai. Strade in diretta. Sta nevicando sull'Appennino abruzzese, ma al momento non si registrano disagi alla circolazione in autostrada, il traffico comunque è scarso, sono in azione i mezzi Spargisale. Prudenza poi per i banchi di nebbia sulla 22 del Brennero, visibilità ridotta tra Mantova e Reggiolo Rolo. È tutto, ci risentiamo tra circa mezz'ora. Dai e vai, non è solo calcio. Perché si è occupato di calcio? Per sostenere il club calcistico della mia città, la squadra che io ho sempre tifato da tutta una vita. Tranquillizzarvi, cari ascoltatori, cioè la partita è soltanto al 28esimo. Sì, la Fiorentina ne ha già date 4 all'Inter. E quindi è per quello che non la stiamo seguendo, perché diciamo la passione che può indurre un 4-0 della Fiorentina sull'Inter. Noi abbiamo qua tranquilli, abbiamo qua il nostro pallottoliere, al momento buono lo utilizzeremo. Eventualmente possiamo sintonizzarti su una gara di dressage, se lo ritieni opportuno. Vabbè, adesso non esagerare, adesso non cominciare. Tanto di chess boxing? No, ma dai, queste robe qui sono cose che prima poi vedremo, perché ci suggeriscono ancora i nostri ascoltatori sempre anche il bridge, e inserirebbero anche la briscola, la scopa. Sì. Ecco, questo per dire che questi sono gli ascoltatori di Luca Gattuso, esatto. Diciamolo chiaramente. Ecco. Beh, invece un tuo ascoltatore, perché si firma Giovi, ascoltatore di Sergio Ferentino, dice: quando ci sarà il subbuteo olimpionico? Vabbè, adesso voglio dire, da questo punto di vista lo diremo. Il badminton non lo vogliamo defenestrare? Ci fanno questa domanda? No assolutamente. Assolutamente. Noi siamo i primi tifosi in Italia del movimento del badminton. Proprio sul badminton, Massimo da Udine dice: fuori il badminton e dentro la morra friulana. E via così con la mora. No, non c'è il divieto dell'utilizzo dell'alcol prima di ascoltare la trasmissione. Ecco, no, anche perché continuano questa sera, è una serata così buttata al vento, perché continuano appunto a mandare inutili passaggi. E ora che entri il pattinaggio a rotelle, che tra l'altro ricordiamo è tra quelli candidati all'ingresso, proprio appena uscirà fuori la lotta greca-romana, si prenderà una fracata di botte da quelli dai lottatori, però entreranno dentro tutti con i pattinaggi a rotelle. Pattinaggio a rotelle, tra l'altro noi no? Cioè facciamo faville col pattinaggio. Sì, esatto, giocatello. Il pattinaggio giocatello è una delle discipline in cui a livello mondiale diciamo eccelliamo, una delle eccellenze nazionali, quindi se dovesse entrare probabilmente porterebbe diverse medaglie per quanto riguarda l'Italia alle Olimpiadi. Gara d'aliante, volo a vela. Boh, insomma, cioè, tutto sommato è una disciplina sportiva, ci può stare. Sì, tu dici, sei sicuro di questo? 30! Cosa? I minuti. Ah, che spavento. Vabbè, allora cerchiamo di essere un po' più seri. Comunque continueremo a trattare questo argomento, anche perché è uno dei pochi modi che noi abbiamo per capire bene che cosa poi accadrà. Non so tra quanto tempo, scusa, ci sarà il cambio, Luca? Per le Olimpiadi del 2020. 2020. Aria 2016. Però quando è che ci sarà il cambio? Si andrà a fine primavera, tra primavera e l'estate forse, a maggio. A maggio ci dovrebbe essere la riunione del Comitato Internazionale Olimpico. Ricordiamo che questo è stato un comitato esecutivo del CIO, 15 persone guidate da Franco Carraro che hanno preso questa decisione di eliminare la lotta greco-romana. Poi la decisione vera e propria dovrebbe arrivare a maggio oppure nella sessione quella di settembre. Ciao, sono Sara di Brindisi e io vorrei come sport olimpionico tabù fuori. È fuori, no, perché dice olimpionico e tabù sarebbe? Sì. Perché scusa Gerardo? Perché è fuori il lancio del disco femminile. Vuole eliminare il lancio del disco femminile, Sara da Brindisi. Questa è la volontà di Sara da Brindisi. Franco invece cosa nella c'è, scusa, cosa c'è contro il lancio del disco femminile? Dovremmo approfondire. Perché poi c'era col lancio del disco e non col lancio del peso femminile, per esempio? Esiste il lancio del peso. Sì, certo, esiste. Il lancio del giavellotto femminile. Giavellotto femminile, martello femminile. Niente, c'è tutto. Soltanto col disco in questo caso. Qua. Vabbè, comunque andiamo. Questo è bello. Introduciamo il... Cos'è questo? Il polo afghano. Cos'è il polo afghano? Guarda, scusa. Il polo afghano è una cosa drammatica. Nel senso che utilizzano una pecora morta, ovviamente. Sì. E se la trascinano cavalcando all'interno di un campo. È una specie di polo, nel senso che vanno a cavallo e si passano questa pecora finché non la portano in una zona di meta. Cioè, invece di utilizzare una pallina, una palla, esatto, una cosa rotonda, ma utilizzano la pecora una si diverte. No, la pecora è già morta. Contrario, sono contrario. Buscachè si chiama Buscachè. Sì, qualcosa sì, di comunque simile. Michele Firenze è fuori schema e ginnastica. Fuori scherma e ginnastica. Mm. Ok, Michele, ok, però dopo devi smettere. Cioè, adesso puoi prendere tutto quello che vuoi, poi dopo cerca di disintossicarti. No, tiro con la fionda, non ci interessa. Franco, invece, nella nostra bacheca della pagina Dai e Vai Radio 24, chiede di riammettere subito la lotta, sì, sport intoccabile, sì, ed eliminare piuttosto il ciclismo su strada, visti gli ultimi scandali, che non merita di partecipare alla festa dello sport. Invece ciclismo su pista tutto buono. Sì, tutto bene. Ciclismo indoor alla grande, insomma, no? Cioè, risolviamo i problemi del ciclismo e manteniamo come sport olimpico. Cosa sì vuol dire? Poi c'è chi vuole il calcio gaelico. Sì. Solo il calcio gaelico. Sì. Vabbè, è questo. O il beach tennis. Beach tennis, ma esiste? No, penso, perché la pallina vuoi far rimbalzare sulla spiaggia. Sì, appunto, non rimbalza sulla sabbia. Fai tutto al volo, tutto al volo. Tutto al volo? Sì, con tipo i racchettoni, hai capito? Attenzione, quindi vabbè, ti ringrazio per questo messaggio che ci hai appena inviato e va bene. Comunque, allora ricordatevi, ascoltatori, noi possiamo andare avanti ancora fino alle 23, poi dopo basta per il momento. Ricordatevi 349-238-6666 per cominciare a suggerire qualche sport al posto, poi vedremo se poi andrà via, della lotta greco-romana. Take me now, baby, as I am. Pull me close, try and understand. Desire is hunger, is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed. 21 febbraio, lontano, neanche tanto poi, adesso senza esagerare, 21 febbraio 1992, eh? Eravamo ad Albertville e c'erano le Olimpiadi. Chi più chi meno. Chi più chi meno, sì, è vero. Eravamo forse esagerati. Non proprio tutti, esatto. Eravamo ad Albertville. Diciamo, no? Eravamo davanti a un televisore collegato con Albertville. Esatto, no? E quindi diciamo che tra pochi giorni, 4 giorni, esatto, no? Ci sarà questo ricordo. Questo anniversario. Questo piccolo anniversario molto importante invece, il primo oro olimpico italiano della storia di fondo femminile. Lo vinceva Stefania Belmondo, che abbiamo qui al telefono. Ciao, buonasera a tutti. Ciao, posso alzarmi? Ciao. Ho fatto questa presentazione a genuflesso. Posso alzarmi, Stefania? Certo, ma per carità. No, insomma, siamo emozionati di averti qui al telefono. Perlomeno io, poi loro non hanno cuore. Quindi ma come non avete cuore? No, non avete cuore, voi siete insensibili, voglio dire, da questo punto di vista qua, no? Ecco qui. Però ecco, siamo un po' emozionati di averti qui con noi, insomma, anche per ricordare quella tua vittoria, che tu ovviamente hai perfettamente nella tua memoria, ti è rimasto. Sta impressa, no? E che ci racconterai un po' questa sera? Ma sì, perché innanzitutto mi fa molto piacere che mi abbiate chiamata per ricordarmi questa data. Poi io l'altro giorno mi ero dimenticata, ma un tifoso mi ha mandato gli auguri proprio perché il 9 febbraio era invece la data della 15 km a Salt Lake City. Ecco. E beh, sì, sono delle emozioni che uno non può dimenticare, dei ricordi che anche se sono passati 20 anni, però insomma il 21 febbraio è sicuramente una data speciale, perché ricordo ancora quando ho tagliato il traguardo di quella 30, una bellissima gara, una bella giornata, indimenticabile un po' per tutti. Ma tu ci credevi? Ricordo che dopo aver vinto una medaglia d'argento, una di bronzo, ero partita da un quinto posto, poi un terzo, un quarto, un secondo e mi mancava l'oro. Ero lì in attesa, però insomma un po' ci speravo, crederci non proprio. No, No. Senti, l'importanza di quella medaglia, al di là del fatto che credo che sia il coronamento di qualsiasi atleta che svolge una disciplina olimpica, quella di vincere una medaglia d'oro, ma era più importante perché era la prima medaglia del fondo o perché era un oro olimpico? Perché io credo perché era un oro olimpico, perché il fatto che fosse la prima medaglia nel fondo, quello non ci pensavo, anzi non ci avevo nemmeno pensato sinceramente. Poi forse perché avevo 23 anni, quindi ancora giovane, no, per questa disciplina dello sci di fondo, e quindi per tanti motivi, ecco, è stata comunque una medaglia importante. E poi da lì sono partiti altri risultati, non solo miei ma di tutta una grande squadra di quel periodo, sia nello sci di fondo che nello sci alpino. Sì. Anche perché tu da sola hai vinto due medaglie d'oro agli Olimpiadi, 3 argenti e 5 bronzi, 4 titoli mondiali, 7 argenti e 2 bronzi, nei mondiali juniores 2 oro, 1 argento e 1 bronzo, e 35 campionati italiani, impressionante. Cioè tu praticamente potresti quasi un giorno sì un giorno no festeggiare qualche anniversario. Nel periodo invernale è vero, hai ragione. Senti, ma tutte queste medaglie dove le tieni? Perché cioè, ci vuole un hangar, un tir. Una bacheca qui in casa . E ho diviso quelle olimpiche da quelle mondiali, le ho lì. Sì, diciamo che c'è una parete. Una piccola parete. Per sapere così, no, tanto per capirci. Senti, 23 anni dicevi, ma tu quante ore ti allenavi al giorno? Tanto, io percorrevo 10.000 chilometri all'anno. 10.000 chilometri all'anno, neanche la mia macchina le fa, scusate. Senti, cosa pagavi di assicurazione, per curiosità? Il tagliando lo facevo una o due volte all'anno. Ma infatti adesso il motore è un po' fuso, comunque vedremo di ecco, ma l'allenamento, cioè, in questo caso, cioè, come avveniva? Da sola, no? Con qualcuno? Allora passavo l'inverno, calcola che stavo via quasi tutto l'inverno, poi trascorrevo 240 giorni all'anno via da casa, tutto l'anno, perché in estate andavo in ghiacciaio, poi in inverno andavamo a cercare la neve dove c'era, e poi quando ero a casa avevo un programma di allenamento e mi allenavo in base a quello che mi aveva detto l'allenatore. Qual era la cosa che a un certo punto un atleta lo vive magari anche un po' come un sacrificio, questa situazione di allenarsi? Qual era la cosa che ti dava più soddisfazione, quella che ti pesava di più durante gli allenamenti? Ma quello che mi pesava di più era forse allora stare via da casa, era la cosa più pesante perché comunque passavi appunto tanto tempo via. Quello che mi piaceva era il fatto che la bellezza del nostro sport è perché lo fai in mezzo anche alla natura, e poi a volte, ecco, non pensate che fossi masochista, ma noi forse atleti di questi sport così duri in parte lo siamo, cioè il fatto di misurarmi ogni giorno con me stessa e sentire più faticavo e più ero soddisfatta del lavoro che avevo fatto perché sapevo che rendeva. La dura Stefania del mondo. Sì, adesso Luca, trattieniti un attimo, resta qui con noi, non ti muovere, non andare via, perché abbiamo la pausa per la pubblicità. Dai e vai. Oggetti smarriti, buongiorno. Salve, ho perso metà SUV, metà computer e metà divano. E ora riattacco perché non posso permettermi più di metà telefonata. Domani potresti perdere metà di quello che hai. Non rischiare. Fai un check-up previdenziale e conserva per intero la qualità della tua vita futura. Pianifica la tua pensione con la competenza del gruppo Deutsche Bank. Rivolgiti agli sportelli Deutsche Bank o ai promotori finanziari di Finanza e Futuro. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Condizioni contrattuali su gruppodb.com. Corri più veloce, libera il tuo cellulare con Mobile Freedom. Chiamate, sms e internet illimitati a 30 euro al mese, per famiglia e partita IVA, per sempre. Fastweb, immagina, puoi. Info su fastweb.it, 192192 e punti vendita. Dai e vai, non è solo calcio. .22:31 in questo momento, ancora con Stefania Belmondo qui a Dai Vai, non è solo calcio, l'avete già sentito proprio un attimo fa, non avete sentito, 800-24-00-24, 4-1, proprio nel momento in cui noi ci siamo un attimo staccati, appena finirà la trasmissione l'Inter rimonterà, sì, però esatto. Peccato, è finita la partita. Una spingardata da fuori di Cassano, proprio un tiro da circa 25 metri, proprio a girare di esterno destro che si è infilato a fil di palo, quindi Fiorentina 4-1, questo risultato, siamo a 42 minuti e 30 secondi. La Belmondo troppo sexy, ci dico. Ah, davvero? Ci ha già mandato un sms, Stefania, non è colpa, no? Cioè, ti dico. Questa persona no, non sì. Mi conosce bene, allora. Con qualcun altro. No, però è uscito fuori questa cosa qui, noi te lo diciamo. Stefania, poi ti... mi prendeva in giro. No, assolutamente, si vede proprio da come l'ha scritto che era serissimo. Cioè, è serissimo, c'è scritto. La Belmondo è troppo sexy. Poi ti mandiamo il numero di cellulare dell'ascoltatore che ha scritto questo sms. Senti, no, ma non va bene così. Lasciamo stare. Senti, ma cosa ti manca di quel periodo? Perché tra l'altro, voglio dire, vabbè, ti facevi 10.000 chilometri, mettiamo che adesso ne hai ridotti, quanti ne fai all'anno? No, adesso veramente, proprio quasi niente. Quasi niente, cioè quasi niente, ti sei fermata insomma in qualche modo. Sì. Ecco questo passaggio. Cos'è che ti manca però di quel periodo, a parte i 10.000 chilometri? Ma mi dice... Devo dire la verità, a me manca l'agonismo, proprio la gara in sé mi piaceva. L'adrenalina, poi, quindi. L'adrenalina, il girare il mondo, anche questo, a me piaceva proprio tanto. Va bene che sentivo un po' la nostalgia di casa, ma stando via così tanto è ovvio, però devo dire che mi manca proprio questo girare, ma anche il fatto della preparazione, è un bel mondo, anche perché se vogliamo dirla proprio tutta, noi atleti secondo me siamo dei privilegiati. No, no, ma anche a dirla poca, no? Senza dirla tutta, cioè lo sapevamo. No, ma lo dico sempre, perché è vero che quando la gente dice, ma quanti sacrifici, è vero, ma in fondo li facciamo tutti i sacrifici, però noi facciamo un lavoro che abbiamo scelto per passione, ed è una grande differenza da uno che deve invece andare a lavorare tutti i giorni, ma fare un lavoro, il lavoro che ha trovato. La situazione poi all'interno delle Olimpiadi è ancora una situazione all'interno del tuo lavoro ancora particolare, cioè quello che si creava, l'atmosfera che si creava all'interno delle Olimpiadi. Sì, poi ogni Olimpiade, io ho partecipato a 5 Olimpiadi, ma ogni Olimpiade era speciale, aveva qualcosa di diverso da un'altra, e in ogni Olimpiade c'è un'atmosfera particolare, tipica proprio di questo grande evento. Poi questa di Albertville, no, è stata particolarmente interessante, no, per certi versi. Sì, perché vabbè, a parte che vicino a casa, poi insomma ci sono stati dei grandi risultati un po' di tutti gli italiani, anche dei miei compagni di squadra, anche nei maschi, poi anche nello sci alpino, Deborah piuttosto che Alberto Tomba, quindi certo. Insomma è stato un po' un insieme, no, di tutti quanti. Ma lì abbiamo... vi incontravate oppure non riuscivate neanche a incontrarvi tra di voi? No, sì. Con qualche atleta di altre discipline sì, con lo sci alpino eravamo un po' più lontani perché sì. I villaggi olimpici erano divisi. Però, poi lì facevano anche un po' le star loro, no? No, ma magari loro erano qualche chilometro più lontano rispetto a noi perché gareggiavano in Val d'Isère, certo. Noi eravamo invece alle Sesi e quindi era un po' diverso, però poi alle premiazioni o a grandi manifestazioni poi ci siamo incontrati. Ma gordi, insomma, queste cose qua. Ecco, Stefania, questa settimana, tra l'altro, oltre a essere questo grande anniversario del 21, il 20 di febbraio inizieranno i campionati mondiali di sci nordico in Val di Fiemme, in Italia, dal 20 di febbraio al 3 di marzo. Noi arriviamo con un bilancio Oslo di 2 anni fa di 2 medaglie d'argento. Com'è che arriva la nazionale italiana, sia maschile che femminile, a questi mondiali di sci nordico in Val di Fiemme? Io credo che... è d'obbligo arrivare ottimisti, no? Sperando quello di poter sempre. Ottenere il massimo, anche perché prima di tutto si gareggia in Italia e quindi quando gli atleti gareggiano nella propria nazione hanno sempre quel qualcosa in più, no? Perché già sono spinti dal tifo, dal pubblico, dalla gente e quindi questo è importante. Io credo che nelle donne stanno andando bene le ragazze, devo dire che sono molto giovani, quindi bisogna avere la pazienza, la costanza di aspettare e sono sicura che i risultati, se non adesso però nel futuro, arriveranno. Per quanto riguarda gli uomini, insomma abbiamo già avuto dei bei podi quest'anno e io sono fiduciosa per qualche medaglia, io credo che riusciamo a portarla, a tenercela, non portarla, a tenercela qui in Italia. Senti, proprio in questo momento, tra l'altro, proprio su queste parole, lo stadio di Firenze si è alzato in piedi e ha osannato le tue parole, ma anche ha osannato la vittoria della Fiorentina in particolare, che ha vinto sull'Inter 4-1. Tu che squadra tieni? Tieni a qualche squadra? Segui il calcio, non te ne frega niente. Non mi fate le pernacchie, io tifo per la Juve. No, lo sapevo. Stefania, no. Scusa, Stefi, da te non Stefi, ce l'aspettavamo. Stefi, no. Sorella bianconera, ascolta, parla con me. C'ho due deficienti, scusa, in studio, purtroppo. Mio marito della Fiorentina, vabbè. Allora, tu passagli così, con nonchalance, fagli quattro, così, quattro pappine, così. Ecco, cioè. Stefania, vabbè. Sorella bianconera, quindi questo non ti preoccupare, ci sono purtroppo dei cialtroni che sono, bisogna educarli anche loro. Uno è un sandoriano e uno tifa per il Venezia, che non pensavo neanche avesse una squadra il Venezia, tra l'altro, in questo caso. Senti, noi ti ringraziamo moltissimo per la tua disponibilità all'interno di questa trasmissione. Volevamo soltanto chiederti una cosa: tu sai che all'interno delle Olimpiadi, non quelle invernali, le altre, c'è forse questa possibilità di allontanare o comunque scartare la lotta greco-romana e ci sono in ballo tantissime altre ipotesi di altri sport, tra cui l'arrampicata. C'è l'arrampicata sportiva, il wushu, c'è il karate, c'è il baseball, il softball, il pattinaggio e il wakeboard. Il wakeboard, ecco. Che non, non ci chiedere come funzionano perché ne sappiamo pochi di questi qua, certo. Stiamo imparando questa cosa, però noi a questo punto chiediamo: hai uno sport in particolare che tu non vorresti vedere alle Olimpiadi? Cioè che c'è in questo momento? Estive, non invernali. Che bella domanda. Ma no, io non sono d'accordo sul fatto che vogliano togliere la lotta greco-romana, perché comunque, no, questo mi dispiace veramente. Ti dà un po' fastidio, eh? No, perché non è giusto, cioè perché dobbiamo sacrificare questo sport che comunque è tra uno dei più antichi, no? Sì, che fanno parte delle Olimpiadi, perché bisogna toglierlo per metterne altri. Allora, se ne vogliono mettere altri, d'accordo, però insomma non togliere questo. Vabbè, insomma. E uno, non so, non mi dovete lasciare. Ma non c'è uno sport in cui ti annoi, cioè quando lo vedi, no, questo non lo guardo. Cioè, per esempio, tu che rapporto hai con il dressage? Così, uno a caso. Ecco, sinceramente non lo guardo. Brava, neanche noi. No. Ma perché? No, niente di personale col cavallo, però appunto. Con quello che è sopra il cavallo, sì, io ce l'ho sicuramente. No, ma È un bellissimo sport, però non lo guardo, ma non perché non mi piace. No. Non lo so, perché non ti annoia, perché ti annoia, questo è il problema. No, il problema è che è molto tecnico e quindi se non si hanno in mano, come dire, almeno delle redini per poter giudicare quello che sta accadendo, è difficile da seguire. Ti ringraziamo. Non lo capisco, ma va bene lo stesso. Però ti adegui, ciao. Ti adegui. Grazie, buonanotte. Grazie, ciao, tutti, grazie. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Stefania Belmondo qui da noi a Dai e Vai. Scusa, io mi ricordavo tiro con la cerbottana, sì. Ma con la cerbotta? No. No, no, non esiste. No, no, non esiste, no, non vale. Via. Voto annullato. Voto annullato, via. Schiaffo del soldato. No, quello non è disciplina, no, olimpica, no, mi spiace. Anche perché tra l'altro c'è sempre la pace olimpica, esatto, in quel periodo lì, quindi prima cosa. Quindi no schiaffo, no soldato. No soldato, no. E se fosse possibile, potresti evitare di mandarci altri SMS nella vita? Facciamo un riassuntino di quello che è accaduto? Andiamo con il risultato che è finale, l'abbiamo detto pochi istanti fa. Fiorentina-Inter è finita 4-1, due gol di Ljajic, due di Jovetic per la Fiorentina, il gol dell'Inter quando mancavano pochissimi minuti alla fine di Cassano. Basta. Questo è quanto. Poi vogliamo parlare degli assist? No, facciamo un po' di assist da qualche parte, esatto, per quelli del fantacalcio. Allora, gli assist della partita di questa sera sono uno di Jovetic, quindi oltre ai due gol anche c'è stato anche l'assist sul primo gol di Ljajic e poi di Aquilani che ha fatto un colpo di tacco sul terzo gol, quello di Jovetic. Mentre nelle altre partite abbiamo un assist di Kossu in Pescara-Cagliari, doppietta di Sau, quindi il primo gol è stato fatto con assist di Kossu ed è stato espulso nel Pescara Weiss. Quindi chi ha Vice nel fantacalcio si becca un meno uno. Ci potete arrivare tutti quanti voi ascoltatori. Bike Polo. Scusi? Bike Polo. Sto leggendo, c'è scritto Bike Polo. Cioè, Bike Polo, è facile, non ci vuole molto. C'è scritto, sì, adesso Bike Polo. Cioè si va in bicicletta con la Polo. No, per favore, no. Dai, questa cosa qua. Allora, noi ne parliamo direttamente con una persona che è competente rispetto a tutto questo, con Tommaso Piersanti, giusto? Pronto? Pronto? Salve, buonasera. Come sta? Ci sente? Salve, buonasera. Ci sente? Mi sento. Ah, perfetto. Bene, è già qualcosa. Telefona dalla Luna, dove fanno il bike polo. Ecco, Tommaso? Dove si trova? Dove ti trovi, Tommaso? Io sono di Fano, Fano delle Marche. Ho capito, perfetto. Ecco. Bene, allora, vediamo un attimo di capire. Ci abbiamo 3 minuti per spiegare che cos'è il bike polo. Poi dopo facciamo una piccola pausa, rientreremo e ci racconteremo un po' di cose, del perché esiste il bike polo. Cos'è il bike polo? Vabbè, come già dicevi tu, sì, si parla di una bicicletta e una mazza, che sono le cose fondamentali. È uno sport sconosciuto sicuramente di più. Dobbiamo immaginarci un campo tipo quello da hockey, con delle porte non in fondo, ma leggermente avanzate, e si gioca 3 contro 3. Lo scopo è quello di fare gol e non si può fare piede a terra. Ah, non si può fare piede a terra? Ah, questo è fondamentale. Esatto. Cioè, cosa vuol dire? Non si può fare piede a terra, sì, si dice? Vuol dire che in bicicletta non puoi mettere mai il piede per terra, sennò è fallo. Sai che l'avevo intuito questa cosa, esatto, qua, però stavo entravo nello slang, no, del bike polo. No, sì, piede a terra, fallo in questo caso, se uno mette il piede a terra. Esatto, perché a destra e a sinistra, a metà campo, ci sono degli oggetti chiamati tap, no? Che sono fatti ogni torneo, diciamo, se li inventano di nuovi, e vanno battuti, e finché non sono battuti uno non può interferire nel gioco. Uno sport dove ci gioca a tre, avere un giocatore fuori anche se poco è pesante. Bene, tu sei presidente della Bike Polo di Fano, giusto? Ho capito bene? Sì, ho capito. Un'associazione, esatto, sì. Quante... stanno nascendo piano piano. Dimmi. No, ma quante ce ne sono in Italia che giocano a Bike Polo di associazioni? Guarda, che hanno fatto il passo di diventare associazione, poche, di città e squadre tante, perché diciamo che siamo uno sport, qualcuno lo definisce street, non riconosciuto, e forse ci piace anche essere così, e quindi tutto funziona tramite internet, anche quella che noi chiamiamo la federazione non è altro che un forum statunitense a cui facciamo riferimento, tutto funziona come gli altri sport, solo che diciamo tutto discusso su forum e online. Cioè avete poche strutture ufficiali, ma avete molti contatti in rete. Cosa ho detto? Sì, sì, sì, sì, sì. Ho detto qualcosa di giusto. Digitalizzare non interessa a tutti, perché comunque la cosa sta esplodendo. Sì. Oddio, se posso dire una cosa, il bike polo su Prato esiste dalla fine del 1800. Quello che giochiamo noi su cemento è degli anni 90. Beh certo, 90. Prima non c'era il cemento, quindi per forza. Resta lì, non ti muovere, Tommaso, resta con noi, andiamo col traffico. Dai e vai. Strade in diretta. Circolazione scorrevole sulle principali strade in questo momento, ma mezzi spargi, sale in azione su diversi tratti e continua a nevicare in Abruzzo. Prestate attenzione in particolare sulla 24 Roma-L'Aquila-Teramo tra Carsoli Oricola e San Gabriele Colle d'Ara. Prudenza poi per i banchi di nebbia sulla 22 del Brennero, visibilità ridotta tra Mantova e Reggio Alorolo. È tutto, a più tardi. Dai e vai, non è solo calcio. Tommaso Piersanti è presidente dell'associazione Bike Polo di Fano, giusto? Ho capito bene? Esatto. Ecco, allora, scusa Tommaso, mi è sfuggito questo piccolo particolare, ma non marginale, e cioè le dimensioni, insomma, del campo, cioè del campo, del campetto, della piazza, insomma, quanto è grande? Allora, diciamo che si parla di 40 metri di lunghezza per 15 o 20 di larghezza. Ecco, che più o meno rispetto a un campo di calcio è più o meno, diciamo, un terzo, metà, poco un meno terzo della metà. Più grande di un campo da basket. Ecco, più grande di un campo da basket. Molto. Vabbè. Di stop e ripartenze. Senti, quindi, incidenti, rischi di farti male? Sì. Ride, vedi come ride, vedi. Cioè, parliamo di incidenti, di gente che si fa male, lui ride, vabbè. Sì, perché anche io mi è capitato di farmi male. Ah, dov'è che ci si fa male? Forse a che livello si gioca, eh? Cioè, qual è la parte del corpo in cui è più probabile farsi male? Ma guarda, c'è una varietà incredibile, a volte solo la fantasia può riuscire a spiegarlo. Diciamo che sicuramente le gambe, le braccia. Ma infatti in questi ultimi anni ci siamo fra virgolette corazzati, utilizziamo quello che è il casco da hockey con la griglia davanti, perché sai, anche non volendo è facile che un avversario, ma anche un compagno, in un tiro sventolando con la mazza ti prenda in faccia. Ah, proprio, insomma, di tutte. No, bene, mi piace questo spot che stai facendo per il bike polo, in questo caso. Voi mirate le Olimpiadi o è un sogno ancora lontano? Ma guarda, noi abbiamo avuto la fortuna e merito di riuscire a partecipare agli europei in base ai risultati dei nazionali, e due volte, ma solo una, siamo riusciti a poter andare ai mondiali, perché dopo c'è il problema del budget, siamo sempre autofinanziati, cioè, quindi bisogna far sì che tre persone, più tre, abbiano tempo, ferie, denaro. Vabbè. Sport povero, come un po' tutti dicono, sempre uno sport povero, però c'è, insomma, in qualche modo. Dacci subito, però, velocissimo, quando è che possiamo vedere una partita di sport polo? Guarda, fine marzo, adesso mi sfugge la data, c'è la Matadoro, che è il torneo più antico, sì, tra virgolette, italiano, che sarà a Vicenza. Ma cliccando su internet, mettendo bike polo o andando sul nostro forum, sì, che è www.hardcourtitalia.it, lì ci sono tutte le informazioni. Vabbè, fine marzo, abbiamo capito. Grazie Tommaso. Grazie a voi. Ciao. Buona serata. A abbiamo parlato di sport che stanno, che dovrebbero entrare, che potrebbero entrare, che vorrebbero entrare all'interno. Sicuramente che vorrebbero. Ecco, no, vorrebbero entrare all'interno delle Olimpiadi, e dobbiamo parlare anche ovviamente di questo sport che io tutte le volte che l'ho visto giocare una volta sola, no? Fatica, in televisione. Fatica e sudore. Fatica e sudore, tremendo. Strappi. Abbiamo al telefono il segretario generale della federazione di questo sport, stiamo parlando dello squash, Davide Monti. Monti, buonasera. Buonasera. Voi siete uno dei 7 sport che teoricamente potrebbe lottare per entrare e prendere il posto della lotta, al di là della cattiveria che rubate il posto alla lotta e siete cattivi. Perché dovete lottare, tra l'altro, per questo. Noi vogliamo entrare, non prendere il posto di nessuno, semplicemente vogliamo entrare alle Olimpiadi perché riteniamo di meritarci questa partecipazione. Non vogliamo prendere, non entriamo in competizione con nessuno. Certo, Monti, senta, rispettati. Noi stiamo sentendo un po' tutte le federazioni sportive, o comunque diciamo le discipline che vorrebbero entrare, e sa che tutti ci dicono: noi vorremmo entrare perché ci meritiamo di entrare. Ma adesso ci dica perché. Anche l'arrampicata oggi ha detto la stessa cosa. Ha detto: voglio entrare, però ci meritiamo di entrare, no? Capito? Quindi, E guardi, noi lo squash è uno sport che è praticato in più di 150 paesi in tutto il mondo. Ci sono 15 milioni di praticanti. È uno sport, come voi avete detto poco fa, vero nel senso di intensità, ti manca le parole? No, foga agonistica, mi verrebbe da dire. Prego, scusi. No, dico attenzione, perché se non riesci a dire proprio le emozioni, diventa poi preoccupante riuscire poi a spiegare perché bisogna entrare dentro. Quindi attenzione, perché è un momento importante per i nostri ascoltatori, mentre tra l'altro c'è Stramaccioni che sta cercando di giustificare il 4-1, che è ingiustificabile. Tra l'altro. Quello è fatica, quello è difficile. Quello è impassibile, mi viene da dire. Per lui è più difficile che per me. Assolutamente. Quindi ci stava dicendo 150 paesi e 15 milioni di praticanti, non tantissimi in Italia. Ma in Italia i praticanti sono circa 200.000, diciamo i praticanti, compresi i praticanti amatoriali. Quindi più del curling, insomma. Beh, direi di sì, direi di sì. Abbiamo circa 3.000 agonisti che ormai tutti i weekend competono in gare nazionali e regionali, diciamo. E quindi, ma tornando al discorso dello squash, ci tengo a precisare, a mettere in evidenza che sicuramente è uno sport altamente competitivo, impegnativo, e quindi è uno sport veramente vero, faticoso. Chi pratica squash ma è faticoso guardarlo persino, cioè, è talmente faticoso che uno lo guarda e dice: mamma mia che affanno, cioè, sì, la roba, sì, perché c'è questa pallina che sembra che da un momento all'altro debba poi finire con più rimbalzi, quindi finire lo scambio non finisce mai e dà questa sensazione veramente. Spieghiamo anche, perché magari non tutti sanno com'è lo squash, lo conoscono. In pratica si gioca in una specie di acquario di vetro con la pallina, bisogna farla rimbalzare nella parete di fronte, una tipo tennis più o meno. Si gioca in una stanza, la pallina deve sempre colpire la parete frontale e deve fare solamente un rimbalzo per terra. Per andare a colpire la parete frontale si possono utilizzare anche le pareti laterali. Quindi si gioca in uno spazio di 65 metri quadrati, il campo è lungo 10 metri e largo 6 metri, 6 sì. metri 40, e quindi la pallina viaggia a più di 200 km all'ora in certi momenti, quindi bisogna veramente avere tanta attenzione. E molta prestanza fisica, perché non ci si può mai fermare un attimo, perché come ci si ferma si perde il punto, insomma. Ecco, senta Monti, facciamo finta che lo squash è arrivato alle Olimpiadi, ce l'abbiamo fatta nel 2020, la nazionale italiana va alle Olimpiadi, abbiamo speranza di medaglia oppure ce lo guardiamo da spettatori? No, guardi, io sono ottimista per natura, però sicuramente qualche speranza ce l'abbiamo. Abbiamo dei giovani ragazzi promettenti, in questo momento, diciamo, a livello giovanile siamo un po' in tutte le categorie, abbiamo dei giocatori tra i primi 10 in Europa. Ah, in Europa. La nostra nazionale assoluta ha conquistato 2 anni fa un 6º posto ai campionati mondiali, ha vinto una medaglia di bronzo ai campionati europei, quindi siamo vicini. Va bene. Noi la ringraziamo intanto per questo primo approccio alle Olimpiadi. Noi poco per volta seguiremo attentamente anche tutta la federazione e la ringraziamo per la serata e soprattutto per la sua disponibilità. Grazie. Sì, grazie a voi. Buonasera a tutti. Davide Monti, della segretaria generale della federazione di squash. Attenzione, perché c'è anche Stramaccioni, che invece è soltanto l'allenatore dell'Inter, che ha preso 4 papine stasera. Stanchezza, grande Fiorentina, poi che cosa, Giancarlo Marocchi? No, allora, intanto io prendo atto. Ecco, Marocchi, Marocchi sta zitto, peraltro fino adesso Stramaccioni, adesso ti metti in mezzo. L'Inter andando in campo con l'allenatore che sbaglia le scelte, lo dice lui, mi sta bene, anche se io ho sempre detto che lui è il valore aggiunto di quest'Inter, che la sta tenendo, nonostante non abbia tutti questi valori, la sta tenendo in lotta per il 3º posto. Però io allora vado sui giocatori, cioè come affronti tu il problema, soprattutto quando sei fuori casa, che le squadre hanno più coraggio, non sono San Siro che si rinchiudono. Non fargli incisi, Marocchi, cioè, dai. Hai un giocatore che cammina, che è Cassano, e gli altri 2 giocatori d'attacco aiutano veramente poco. Tu, gli altri giocatori d'esperienza, non so, Zanetti e Cambiasso, ti aiutano a affrontare il problema, perché insomma immagino che l'affronterete, perché se fate finta di non vederlo, secondo me attenzione, può diventare polemica. Attacco, polemica. Ma guarda Giancarlo, io con la spero riconosciuta consueta onestà ti dico che non credo che possa essere un problema di un singolo, perché ti ripeto, veniamo con questi 8 giocatori di base da 2 prestazioni secondo me molto positive, e adesso parlare di un singolo che non ha fatto bene probabilmente potrebbe essere riduttivo, soprattutto in una sconfitta di queste proporzioni. Quindi io credo che mai come in questo caso la prestazione sottotono sia stata di tutti, e ripeto, io credo che abbiamo pagato in maniera esagerata l'impegno. Sai che mi sta addormentando un po' come al gioco dell'Inter di questa sera? Si è adeguato alla squadra. Mi sto lentamente abbioccando e lentamente dico che al mixer c'è stato questa sera Roberto Scaltritti che ci ha guidato e ci ha tenuto un po' svegli qua e là. Esatto. È un po' così, È riuscito a muovere le sue dita sul mixerino anche Sergio Ferentino, con la regia ha manovrato un po' e ha cercato di tenere sveglia la situazione. Giorgio De Luca, secondo me, si è un po' abbioccato, però lui dorme ad occhi aperti e quindi è lì di sveglio, pronto alla bisogna, ma ci ha assistito anche questa sera. Invece sicuramente dormiva, dipingendosi però delle pupille sulle palpebre, il nostro Luca Cancellara in redazione. Dai vai, un programma che è quasi più... che è un po' più vivace del dressage, devo dire. Mica tanto. Stramaccioni un po' così ci ha portato verso il dressage. È un programma di e con Luca Gattuso e Sergio Ferrentino. No, ma non così. Ah, scusa, è il primo tasto che mi è venuto, insomma, da questo punto di vista. Adesso non è che dobbiamo stare qua. Vuoi davvero? No, è che volevo svegliare anche un po' Stramaccioni in questo caso, svegliare anche i nostri ascoltatori. Diciamo che non mandateci più gli sms, potete però mandarci i vostri messaggi dentro la nostra pagina Face. E questo è Dai Vai, non è solo calcio. Stramaccioni ormai anche lui c'ha l'occhio spento, a metà palpebra in questo comunque caso. Mi sembra che abbia ammesso delle sue responsabilità, ha detto è colpa mia dalla domanda che gli hanno fatto. Sì, non è colpa di Cassano, non importa se cammina, tanto che se cammina da solo. Attenzione. No, problemi ad ammettere che Gargano era nella mia testa fino a poco prima della partita, poi ha avuto questo problema al gemello del polpaccio, ma non c'entra, non c'è assolutamente una connessione col risultato. È terribile. Ti ripeto, sembra un'analisi banale, ma la Fiorentina, se guardi la formazione esclusa Aquilani, è la stessa formazione dell'andata, identica, anzi no, forse Roncaglia-Savic, però era lo stesso, l'interpretazione diversa era che Tomic... Guardate, io vi lascio ascoltatori con Stramaccioni, che sta dicendo delle cose veramente molto, ma molto interessanti, e ci lasciamo tutti quanti, dai, ciao, ciao, buona serata, ciao. Visto che l'andata fu forse uno dei momenti più alti del suo feeling con la piazza nerazzurra, le chiedo se il derby di domenica è anche un'occasione per lei dal punto di vista... Tutti consigliano di diversificare gli investimenti. Il fondo UBS Multi Asset Income lo fa davvero, investendo in asset cui forse non avete ancora pensato, con l'obiettivo di generare reddito e prendersi cura del vostro capitale. UBS Multi Asset Income, il pezzo mancante nel vostro portafoglio, con la gestione attiva di UBS Global Asset Management. Per informazioni ubs.com/mai. Comunicazione pubblicitaria. Prima dell'adesione, leggere il prospetto informativo. Pronto? Ma chi è? Ma chi è? Oh, porca... 24 Mattino inizia alle 6.30. Sempre dal lunedì al venerdì, sempre su Radio 24, sempre con Alessandro Milan. Eccomi, eccomi. Ci sono, ci sono. E puntate la sveglia.